Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io ho sentito alcuni super manager dire: allora io con 238.000 euro me ne vado nel privato. Vai, cioè se ti prendono vai, vorrei vederli tutti questi grandi super manager che trovano queste cifre. Noi abbiamo detto ci deve essere un limite agli stipendi, almeno nel pubblico, nel privato non possiamo decidere noi. 238.000 euro lordi l'anno sono tanti. Insomma, sono tanti o sono pochi 238.000 euro l'anno, quelli che insomma ha imposto Renzi ai super manager? È un argomento che potete continuare a commentare naturalmente tra i tanti che tratto qui a Effetto Notte con gli ospiti e riassumendo anche la giornata, ma ce ne sono poi di argomenti. Parleremo dell'intricatissimo caso di Yara Gambirasi. Oggi c'è stata una conferma decisiva, definitiva su chi dovrebbe essere colpevole, almeno a chi appartiene questo DNA, però poi diventa molto difficile capire esattamente dove sta questa persona. Ci sarà un famoso criminologo poi a parlarne. Naturalmente ci soffermeremo sulla vicenda di Berlusconi, sulla decisione, più o meno decisione, che dovrebbe essere arrivata della scelta tra servizi sociali e invece arresti domiciliari, e poi altri argomenti che vi sottoporrò più tardi. Vi ricordo che ci sono sempre due canali per i vostri messaggi, gli sms al 349-238-6666, se no le vostre opinioni sui vari temi alla pagina Facebook di Effetto Note. Vi riassumo prima la giornata. Berlusconi ha accolta la richiesta della difesa. Il procuratore generale avrebbe dato parere favorevole all'affidamento in prova. La decisione è depositata però tra 5 e 15 giorni. Formigoni, la procura di Milano sequestra la sua villa in Sardegna, stoppa i conti, blocco di quasi 50 milioni di euro. L'ex governatore della Lombardia commenta: non possiedo tutto questo. La vicenda di Yara Gambirasio, la conferma dal DNA, l'assassino è il figlio dell'autista di Gorno. Europei, il PD litiga, Grillo attacca, Veline come capilista, e i renziani replicano: ha paura di perdere. E per il calcio Europa League stasera Juventus-Lione, obiettivo semifinale. E partiamo quindi dalla decisione, chiamiamola così, del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla pena per Silvio Berlusconi dopo la condanna per frode al processo sui diritti TV Mediaset. La possibile scelta era tra gli arresti domiciliari, ve lo ricordo, e affidamento ai servizi sociali, e si può già dire che la Procura Generale abbia optato per questa seconda possibilità, cioè ha accolto la richiesta della difesa. Così Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, allora cominciamo col dire che sì, la Procura ha dato il suo parere favorevole all'affidamento ai servizi sociali, ma si tratta di un parere, non è stata presa alcuna decisione, certo. La decisione spetta al Tribunale di Sorveglianza, al collegio che compone il Tribunale di Sorveglianza. Quella di oggi è stata l'udienza in cui si è discusso, diciamo, su come far scontare a Berlusconi questi 9 mesi, che di fatto sono 9 mesi effettivi dei 4 anni di condanna per frode fiscale al processo Mediaset. In sostanza funziona così: oggi la difesa di Berlusconi ha chiesto l'affido ai servizi sociali, come aveva già anticipato in una memoria mandata al collegio. Il rappresentante dell'accusa, il sostituto procuratore generale Antonio Lamanna, doveva dare il suo parere, doveva dire se era favorevole all'affido ai servizi sociali oppure piuttosto chiedere per i domiciliari. Ha detto che sì, è favorevole all'affido ai servizi sociali, anche se ha dato il suo ok non alla richiesta avanzata da Berlusconi, bensì a quella che già nei giorni scorsi aveva preparato per il collegio dei difensivi l'ufficio delle esecuzioni della pena, cioè sono quell'ufficio che si occupa di proporre al tribunale dove far scontare l'affidamento in prova a chi deve scontare una pena non in carcere o ai domiciliari, ma appunto presso strutture terze. E questo ufficio aveva suggerito un centro per anziani della Brianza. Quindi a questo punto, visto questo quadro, un'udienza che è durata 1 ora e mezza, ben più lunga di tutte le udienze ordinarie, che è stata la 59esima di una giornata, che quindi ha visto le altre alternarsi sul tavolo dei giudici soltanto per pochi minuti, a questo punto il collegio si ritirerà in camera di consiglio. Il codice prevede che hanno 5 giorni di tempo per prendere una decisione, ma non sono tassativi. Il presidente presidente del Tribunale di Sorveglianza, Pasquale Nobile De Santis, ha detto che potranno passare anche 15 giorni, quindi la decisione potrebbe arrivare anche a ridosso delle elezioni europee, e il Tribunale ha ancora tutta la possibilità anche eventualmente di decidere per gli arresti domiciliari. È evidente che però il parere favorevole della Procura Generale alla richiesta della difesa fa sì che questa ipotesi abbia più punti rispetto all'ipotesi già più peregrina degli arresti domiciliari. Una cosa fondamentale, ultima Roberta, sarà però anche stabilire quali sono le limitazioni che poi verranno stabilite per l'ex premier, che è quello che più interessa a lui e anche a tutto il mondo della politica, per assicurare la cosiddetta agibilità politica, cioè se oltre a quella giornata alla settimana in cui potrebbe dover andare in un centro di anziani, come dice l'UEPE, o in un centro per disabili, come invece propone la difesa, se avrà altro genere di limitazioni, cioè le persone da incontrare, gli orari per uscire, per quelle per i domiciliari, o piuttosto che le richieste, diciamo, di spostamento, quindi se gli verrà data o meno libertà di muoversi e di fare campagna elettorale. Per tutto questo bisogna aspettare ancora tra i 5 e 15 giorni. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. E sempre sul fronte giudiziario, l'altra notizia oggi in primissimo piano è il sequestro di una villa in Sardegna e dei conti di Roberto Formigoni, che però nega tutto. Una villa in Sardegna immersa in un parco di oltre 10.000 metri quadrati, conti bancari, case, auto per 49 milioni di euro, è quanto ha messo sotto sequestro preventivo la Procura di Milano nei confronti di Roberto Formigoni nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri, in cui l'ex governatore lombardo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e appropriazione indebita. 49 milioni di euro corrispondono, secondo l'accusa, al prezzo della corruzione. Il governatore manterrà solo il conto sul quale percepisce la propria indennità come senatore del nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Il dibattimento inizierà il prossimo 6 maggio. Intanto la Fondazione Maugeri nei mesi scorsi ha già patteggiato con il versamento di 1 milione di euro. Diversa la verità di Formigoni. In una nota l'ex governatore dichiara di non aver mai posseduto una casa in Sardegna e addirittura di avere i conti in rosso. Su uno c'è un passivo di 75.000 euro, scrive, sull'altro figura un attivo di 18 euro e 20 centesimi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dei guai tuttavia non c'è solo Formigoni. Il leader dell'Udeur, Clemente Mastella, la moglie Sandra Lonardo e altre 17 persone sono state infatti rinviate a giudizio per associazione a delinquere. È stato anche definito con il patteggiamento il procedimento a carico dell'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, accusato di violazione della legge sul finanziamento di un parlamentare. 4 mesi di reclusione convertiti in 30.000 euro di pena pecuniaria più 10.000 di multa. La vicenda è quella relativa alla ristrutturazione per 60.000 euro di un appartamento in via del Campo Marzio a Roma. E siamo alla politica, con la bagarre che c'è stata al Senato sul disegno di legge contro il voto di scambio. La vicepresidente Lanzillotta è stata costretta a sospendere la seduta. Il segretario generale fa il suo compito di assistenza, come hanno sempre fatto i funzionari parlamentari, e io sto adotto la mia sempre piuttosto animati insomma queste sedute. Vincenzo D'Anna, quello che sentite in sottofondo, di GAL, del gruppo Grandi Autonomie e Libertà, è stato richiamato all'ordine per aver fatto il saluto romano verso il Movimento 5 Stelle, che aveva accusato di fare squadrismo fascista impedendo di parlare. Poi il voto finale sul disegno di legge è slittato a martedì prossimo sul voto di scambio, nonostante il PD e il resto della maggioranza volessero concludere entro oggi. Poi polemiche e scambi d'accusa anche su un altro tema, le elezioni europee. La composizione delle liste per le europee lascia l'amaro in bocca a tanti nel Partito Democratico, questo a meno di 48 ore dall'avvio della campagna elettorale da parte dello stesso Premier Renzi. Sabato a Torino i casi più noti, quello di Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa, che da capolista si è ritrovato al terzo posto, e poi l'attuale sindaco di Bari, Emiliano, superato al photo finish dalla Picerno. A cercare di chiarire cosa sta accadendo al Largo del Nazareno è allora il vice segretario Guerini. Nel caso della Nicolini, spiega Guerini, la rinuncia è legata a scelte relative al territorio, mentre da parte di Emiliano è in corso una riflessione. Emiliano via Twitter non lascia spazio però a mediazioni, appoggia la Picerno e dà appuntamento alle prossime regionali. Le scelte di Renzi per le europee sono intanto oggetto di scherno da parte di Grillo, che paragona il premier al gabibbo e le capoliste alle veline. Dal PD a replicare è sempre Guerini. Grillo, dice l'esponente del PD, dimostra di avere paura di noi, le sue affermazioni rivelano l'idea che ha lui delle donne. Renzi è criticato però anche da Fratelli d'Italia. Il premier, dice la Russa, dimostra dimostra ancora una volta che con il suo agire vuole gettare fumo negli occhi degli italiani. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto alla Camera è arrivato il via libera alla fiducia del Salva Roma Ter. A Montecitorio il governo incassa la fiducia sul decreto Salva Roma Ter che dovrà essere convertito in legge entro il 5 maggio. I voti favorevoli sono stati 325, 176 quelli contrari. Il provvedimento contiene il discusso piano di rientro per i debiti della capitale, 600 milioni, ma fissa anche paletti importanti per TASI e TARI, per la tassa sui servizi indivisibili in particolare, per le prime case il termine di pagamento per il 2014 è stato fissato al 16 dicembre, una data che riguarda i comuni che andranno al voto a maggio o che comunque non abbiano approvato il bilancio preventivo sempre entro maggio. In serata è atteso il voto finale di Montecitorio sull'intero provvedimento che passerà poi all'esame del Senato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nei prossimi giorni poi saranno decise le nomine dei vertici delle società partecipate dello Stato italiano e il ministro dell'economia Padoan, abbiamo sentito all'inizio Renzi cosa pensare super manager, ha spiegato alla TV americana CNBC le caratteristiche dei manager che saranno chiamati a guidare Eni, Enel e Finmeccanica. Devono essere competenti, ha detto Padoan, in alcuni casi nuove. Per competenti Padoan ha chiarito il modo con cui hanno gestito le responsabilità precedenti in cui hanno avuto successo e da dove vengono. E passiamo alla cronaca, omicidio Gambirasio. Dall'ultimo test arrivano delle certezze, ma l'assassino resta senza volto. Però di questo, come vi dicevo, parleremo in modo approfondito più tardi con un noto criminologo per capire come sia stato possibile trovare il DNA di un uomo che resta sconosciuto attraverso il patrimonio genetico del padre morto anni fa. Una storia molto complicata che cercheremo un po' di chiarire. E poi l'università bufera sui test d'ingresso a medicina che hanno preso il via martedì scorso e che con architettura si sono conclusi oggi all'università di Bari. Infatti all'interno di un plico che appariva manomesso sono state ritrovate solo 49 buste contenenti quiz a fronte delle 50 che invece avrebbero dovuto esserci. I test di tutta Italia sarebbero così a rischio perché il concorso potrebbe essere annullato. Le associazioni studentesche Udo e Rete Studenti Media hanno annunciato un esposto in procura. E allora sentiamo Gianluca Scuccimarra, coordinatore nazionale di Udo, al microfono di Roberta Pellegatta. Quando è successa questa cosa è stata chiamata la polizia, poi la Digos all'interno della classe, dove è stato il test, però è stato detto comunque di cominciare il tutto perché, e questo l'ha detto il Ministero, il plico è stato trovato in un'altra sede addirittura, senza specificare però dove fosse quest'altra sede, quindi di fatto una copia delle domande era andata dispersa ed è stata ritrovata in un altro posto rispetto a dove doveva essere. Qual è lo scenario che si apre e cosa vi aspettate? Noi adesso domani mattina presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Bari per chiedere di avviare immediatamente le indagini su questo. Certo è che se si verificasse, se si dimostrasse che veramente è stato sottratto uno di questi plichi, non è escluso nessuno scenario, compreso quello dell'annullamento completo del concorso. Insomma, ce n'è sempre una su queste cose. Per chiudere il calcio, questa sera la Juventus è l'unica italiana superstite in Europa League che cerca la semifinale contro il Lione e vedo in questo momento l'aggiornamento, proprio scattato ora, 1-0 per la Juventus, è proprio gol di questo momento, vedete che tempismo. Vedo tempista anche un altro ascoltatore, Nicola, che dice: Formigoni ha detto che quello che è stato sequestrato, compresa la villa, non è suo, se volete mi candido come proprietario se non è di nessuno. Penso che molti sarebbero risponderebbero questo appello, ma poi parleremo in modo più serio di questi argomenti. Vi ricordo c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666. Adesso aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi racconto di nuovo in breve tra pochissimo. Stavo guardando se c'erano degli aggiornamenti, c'è un aggiornamento sul Salva Roma, alla Camera manca il numero legale sul voto finale, anche questa è una cosa che insomma va avanti da un po' di tempo, ma vi ricordo le altre notizie. Berlusconi ha accolta la richiesta della difesa, il procuratore generale avrebbe dato parere favorevole all'affidamento in prova, però la decisione sarà depositata entro 5-15 giorni al massimo. Formigoni, la procura di Milano sequestra la sua villa in Sardegna, stoppa i conti, blocco di quasi 50 milioni di euro, l'ex governatore della Lombardia commenta: non possiedo tutto questo. La vicenda di Yara Gambirasio, la conferma dal DNA, l'assassino è il figlio dell'autista di Gorno. E poi l'europeo, il PD litiga, Grillo attacca, ci sono veline come capolista, i renziani replicano a paura di perdere. Per il calcio Europa League la Juventus contro il Lione, obiettivo semifinale, ha già segnato il primo gol pochi istanti fa. una delle due vicende giudiziarie in primo piano oggi, come dicevo, una è quella che riguarda Berlusconi, l'altra riguarda in modo diverso Roberto Formigoni, ex governatore della regione Lombardia, ora senatore del nuovo centrodestra. Sono stati sequestrati, questa è la notizia di oggi, una villa di Formigoni in Sardegna, altri immobili, conti correnti per 49 milioni di euro, tutti beni riconducibili all'ex governatore appunto e all'amico anche Alberto Perego, imputati per la vicenda Maugeri, cioè nell'inchiesta San Raffaele Maugeri, che adesso meglio ci racconterà, ci rispiegherà Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Sì, buonasera. Allora, ci facciamo un riepilogo di questa vicenda che risale a qualche tempo fa, è un po' articolata, no? Tanto per ricordare a chi ascolta esattamente di che storia si tratta. Di cosa si sta parlando? Sì. Allora, questo è un sequestro preventivo, significa un sequestro per cui si mettono da parte dei beni in caso di condanna. Di quali reati stiamo parlando? Del reato di corruzione, di associazione a delinquere, relativi a due cliniche, due inchieste sanitarie che vanno ognuna per conto suo, ma che come filone di indagine possono essere riconducibili appunto ad un unico filone. Si trattava di distrazione di fondi pubblici e di mazzette per il caso della clinica Maugeri di Pavia e per il San Raffaele. San Raffaele, che ricorda, aveva già avuto anche un processo per bancarotta fraudolenta, che aveva già visto sia indagato Formigoni e già condannato anche il cosiddetto faccendiere, suo ex, suo amico storico, per Angelo Daccò, esattamente. Quindi le due vicende si intrecciano, ma non sono esattamente la stessa cosa. Qui si parla di corruzione e di associazione a delinquere per due cliniche sanitarie, cliniche che avrebbero usufruito di grandi quantitativi, centinaia di milioni di fondi pubblici, dice la procura, senza averne i requisiti, grazie all'intermediazione di due lobbisti, appunto Daccò e Simone, ex assessore alla sanità, ma che in questo caso compare proprio come intermediario. Il sequestro di oggi è un sequestro che non riguarda solo Formigoni, anche se chiaramente è il nome più importante, ma riguarda anche Perego, che è il suo amico storico, compagno di Comunione e Liberazione. Sì. Che ricordo avevano appunto comprato insieme la famosa villa in Sardegna, perché in realtà il nome risulta quello di Perego, ma probabilmente, dice la procura, potrebbe essere stato un prestanome per un'acquisizione fatta poi realmente da Formigoni, che infatti oggi si difende dicendo: io non ho ville in Sardegna. E poi ci sono altre persone coinvolte, si tratta appunto di Daccò, di Simone e dell'ex DG della Maugeri, Passerino. Quindi è un complessivo di 49 milioni imputabili, riferibili a queste persone. Chiaramente Formigoni è la persona coinvolta, che ricordo, per la persona coinvolta a livello, diciamo, anche proprio politico principale, e ricordo che è già stato rinviato a giudizio per il caso della Maugeri con l'accusa di corruzione e associazione a delinquere, e il processo inizierà adesso il 6 maggio. Quindi la vicenda in cui è imputato Formigoni, scusami Sara, sì. Inizia sì, quindi sì. Tra poco. Adesso sì, si tratta di poche settimane e Formigoni sarà imputato, perché ha già avuto il rinvio a giudizio da parte del GUP, il giudice per l'udienza preliminare, sì, che ha proprio stabilito che è il caso di iniziare il processo a carico di Formigoni. Ricordo che Formigoni adesso è anche senatore, quindi ha una posizione un po' delicata, non è soltanto come ex politico della Lombardia a questo punto, ma anche come senatore del nuovo centrodestra, la sua visibilità. E ricordo anche che di Formigoni si parla anche come di un possibile candidato alle europee. Certo, quindi... ma Sara Monaci, adesso, siccome oggi Formigoni ha risposto in sintesi: io non possiedo tutto questo, può venire il dubbio che sia a sua insaputa la villa, tutti questi soldi, o come è possibile che lui non possiede quello che gli è stato sequestrato? No, allora è anche per questo motivo, perché la villa... Dice intestata l'amico Perego. Sì, poi lui ovviamente sostiene che non ha mai ricevuto nulla, ma infatti ricordo che per la Maugeri non si è mai parlato di soldi liquidi versati nei conti correnti. Ma di viaggi forse era questo? Viaggi, regali, una serie di agevolazioni che erano state quantificate in una cifra di 8-10 milioni. In realtà questa cifra è stata predisposta dalla Procura e la sta recuperando la Guardia di Finanza. Questi 50 milioni detto. Circa? Sì, questi 40 milioni stanno appunto stabilendo quali beni hanno questo valore, anche la famosa casa in Sardegna. Un conto fu il prezzo di vendita, anche quello sembrava appunto molto ribassato rispetto alla cifra reale, anche quello doveva essere uno dei favori elargiti a Formigoni in cambio degli aiuti alla clinica, fu pagata intorno ai 3 milioni, ma una perizia stabilì all'epoca, si parla di un paio di anni fa, che il valore reale della casa era di circa 7, quindi ecco, la ricognizione di questi 49 andrà fatta nei giorni futuri, nelle prossime settimane, sarà anche da capire se si riuscirà davvero a recuperare questa cifra. Il punto fondamentale è che evidentemente la Procura e anche i militari della Guardia di Finanza ritengono che ci siano a questo punto degli elementi di prova forti anche per il futuro processo, perché evidentemente si tratta di un sequestro molto, molto alto, ecco. Certo, sono veramente molti soldi, ma secondo l'accusa, Sara Monaci, quindi dicevi, sono presi in via precauzionale, ma sarebbero la prova, la quantità, insomma, data per la corruzione, Cioè, sì, che cosa avrebbe fatto Formigoni ricevendo questi soldi in cambio, avrebbe agevolato queste cliniche private? Il giro era questo, se vogliamo rappresentarla, piuttosto comprensibile, ci sono due cliniche che avrebbero avuto dei benefici esagerati, che poi si sarebbero anche soldi che si sarebbero ripartiti anche tra vertici. Come ottenevano questi soldi pubblici? Attraverso l'intermediazione di due faccendieri, Daccò e Simone. Daccò e Simone si occupavano di oliare, di aiutare. Qui si parla sempre, ovviamente, io vorrei dire, questa è la tesi dell'inquirente, certo. Esattamente, quindi andrà chiaramente provata nei tre gradi di giudizio, però diciamo, questo lo dico per garantismo, c'è la presunzione di innocenza, però secondo l'accusa i due faccendieri sarebbero andati quindi ad occuparsi in regione per spingere, perché non si disperdessero queste pratiche che venivano poi favorite, fatte passare prima e utilizzando questo sistema che andava in uso fino a un anno fa nella regione Lombardia, che erano le funzioni non tariffabili, cioè delle funzioni che venivano decise arbitrariamente di volta in volta, stabilendo che per una serie di criteri non ben precisati, si parlava di ricerca, di innovazione, a seconda di ciò che la clinica presentava, allora venivano elargiti dei soldi, quindi criteri molto sfumati che venivano stabiliti di volta in volta da una commissione e che quindi avevano anche potenzialmente delle maglie un po' più larghe, i controlli erano minori, non si stabilisce di dare dei soldi a fonte di tot servizi, di tot risultati, ma ogni volta di qualche innovazione in più che venivano portati. Ecco, questo ha un sistema che ha funzionato per anni, si parla dal 2001 in avanti, e che avrebbe portato alle casse della Mogheri credo intorno ai 200 milioni e diverse decine di milioni anche al San Raffaele. Con questo sistema la Mogheri prendeva dei soldi che si ripartivano e poi ovviamente c'erano delle creste che erano di fondo la parcella di Daccò e di Simone. Una parte di questi soldi venivano poi girati a Daccò e Simone a modo di risarcimento e di ringraziamento per la parcella vera e propria dell'intermediazione. E a loro volta, come veniva ringraziato l'ex governatore, secondo l'accusa, con una serie di favori, con uno stile di vita molto alto, con delle vacanze ben pagate, con dei regali per un ammontare di 8 milioni. Quindi diciamo che dal fondo pubblico, con queste funzioni non tariffabili, poi a cascata la cresta rimaneva attaccata un po' a tutti, all'intermediario e poi anche a Formigoni. Questo è un po' il giro. Si tratta di corruzione, associazione a delinquere. Chiarissima la tua ricostruzione, Sara Monaci, ti ringrazio molto. Poi naturalmente dicevi a breve dovrebbe iniziare il processo e di lì si vedrà che cosa decideranno i magistrati. Grazie Sara, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie, ciao. Buonasera. Buona continuazione. Adesso vedo invece una notizia dall'estero. Israele ha congelato il trasferimento delle tasse ai palestinesi come parte di una serie di sanzioni contro l'autorità nazionale palestinese per aver richiesto l'adesione a 13 trattati o convenzioni internazionali. Lo hanno reso noto una fonte israeliana di alto livello coperta da anonimato. Quindi sarebbe appunto una ritorsione contro l'autorità nazionale palestinese per aver richiesto l'adesione a 13 trattati o convenzioni internazionali. Bene, questa era una notizia che vedevo intanto passare tra le agenzie, però ce ne sono poi altri temi. Dopo questa pausa pubblicitaria parleremo del caso di Yara Gambirasio, intricatissimo, e vedremo se un famoso criminologo tra poco ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Sempre per i vostri messaggi, gli sms al 349-238-6666, mentre la vostra opinione eccetera in genere sempre in qualsiasi ora sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte. Ora vi ricordo tra poco quali sono stati i fatti principali della giornata e poi andiamo proprio su uno di questo, un fatto di cronaca che torna a far parlare. In realtà sono diversi anni che si parla di questo caso, è veramente molto contorto, molto complicato, almeno così apparentemente, ma è dimostrato anche dal fatto che dell'assassino si sanno alcune cose, si conosce il DNA ma non si sa né il suo nome né il suo volto. Ne parleremo tra pochissimo. Le altre notizie: Berlusconi e i servizi sociali, sì della procura, decisione del tribunale attesa entro 15 giorni. Formigoni, è stata sequestrata la sua villa in Sardegna e Conti per 49 milioni. Il GIP dice questo è il prezzo della corruzione e Formigoni risponde non è mia la villa, non sono mia, questi conti sono in rosso. Renzi sfida i super manager, se li prendono vadano pure nel privato. E poi per le europee scontro Grillo PD sulle candidate capolista. Renzi fa marketing con quattro veline, dice Grillo, mentre poi i renziani rispondono Grillo pensa ad attaccarci. La vicenda, vi dicevo, di Yara Gambirasio, la conferma del DNA, l'assassino è il figlio dell'autista di Gorno. E poi per il calcio vediamo se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la Juventus in Europa League contro il Lione. In questo istante anche il Lione ha fatto gol, ogni volta che guardo qui scappa un gol, quindi sono 1-1 Juventus-Lione nella partita di Europa League. Sapete, l'obiettivo sono le semifinali. Adesso il nostro obiettivo è parlare di questo caso così complesso. E ne parlo con Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo, scrittore molto noto. Ciao Massimo. Buonasera, ciao. Allora, la notizia di oggi, uno dice, beh, in realtà di questo già si sapeva tempo fa, ma oggi c'è stata poi la conferma definitiva. La scienza conferma questo, che Giuseppe Guerinoni, quest'uomo che è morto in realtà da qualche anno, è il padre di Ignoto 1. Questo è il nome che è andato al killer sconosciuto di Yara Gambirasio, ve lo ricordate, la tredicenne di Brembate Sopra nel Bergamasco, uccisa il 26 novembre 2010, di cui ancora non si sa volto e nome dell'assassino. Il DNA dell'autista di Gorno, di quest'uomo, è morto nel 1999 a 61 anni, prelevato dopo la riesumazione, ha una compatibilità prossima al 100% con una macchia di sangue trovata sulla povera Yara. L'assassino si era ferito con un coltellino e il risultato a cui è arrivata l'anatomopatologa Cristina Cattaneo fuga a questo punto ogni dubbio. Ci spieghi, Massimo Picozzi, come è possibile questa cosa? Cioè, aver trovato, a parte che è stato fatto uno screening del DNA, mi pare, su 18.000 persone finora in questi anni, tantissime persone. Tutto è cominciato con il ritrovamento 3 mesi dopo la scomparsa di Gambirasio. Sul corpo di questa ragazza si è trovata una traccia di sangue. Inizialmente si sono sottoposti ad esame alcuni ragazzi che avrebbero frequentavano la discoteca prossima al luogo di scoperta del corpo, e qui si sono trovate alcune similitudini che, procedendo all'analisi di un gran numero di persone, hanno portato al padre. Quindi il profilo trovato, del DNA trovato sul corpo della ragazza uccisa, era assolutamente compatibile con il figlio di questo autista. Naturalmente hanno scandagliato la vita di quest'uomo, hanno recuperato i familiari, i figli che aveva, legittimi, hanno scoperto che evidentemente quel DNA non era dei figli legittimi, quindi l'unica spiegazione possibile è che ci fosse un figlio illegittimo che nessuno peraltro aveva mai conosciuto, nessuno ha mai saputo di relazioni clandestine di quest'uomo. Però Massimo Picozzi, detto così sembra quasi abbastanza lineare, in realtà quest'uomo di cui si è analizzato il DNA è morto diversi anni, nel 99 addirittura, no? È morto nel 99, in tutti questi DNA che sono state analizzate, abbiamo detto 18.000, è stato trovato un DNA che era compatibile con alcune persone in vita, però non era esattamente al 100% corrispondente, certo, a loro, ma significava che era un parente loro, e quindi hanno pensato deve essere per forza un fratello di sangue, quindi figlio dello stesso padre, certo, della stessa madre, ma siccome aveva delle particolari differenze non era della stessa madre, era di questo padre, ma evidentemente fatto con un'altra donna, certo, questo, certo, diciamo. Ma diciamo che una prima conferma a questi dati che tu dici era arrivata poi da un primo accertamento del DNA trovato sotto la marca da bollo di una patente. Ai tempi le marche non avevano la, si leccavano, preincollate, diciamo. Si leccavano, e quindi già allora devo dire che chi ha analizzato quel DNA dava una compatibilità con questo signore praticamente perfetta, perché alla fine il riconoscimento di paternità è semplice. Il vero problema è che sono poi andati avanti in questi anni con migliaia di altre indagini genetiche, nella speranza poi a questo punto di trovare la madre biologica di questo ignoto uno, francamente madre di cui non sappiamo nulla, perché potrebbe a sua volta essere scomparsa anni fa oppure essersi trasferita. Tieni conto che questo è un delitto apparentemente contorto, molto contorto, in realtà io sono assolutamente convinto che Yara sia purtroppo stata la vittima occasionale di una persona che ha approfittato di una circostanza favorevole, e qui ogni tanto ci mette tragicamente il naso il destino. Tu pensa che questa ragazza con il suo assassino sicuramente ha attraversato un incrocio vicino alla palestra dove si era recata e dove poi è scomparsa. In quell'incrocio c'era una videocamera di sorveglianza che purtroppo era saltata a causa di un fulmine che l'aveva centrata 2 o 3 mesi prima e il comune ancora non l'aveva sostituita, e questo naturalmente l'assassino non poteva saperlo. Eppure è andata benissimo così, a volte dici tu le congiunture, le coincidenze incredibili, sì, no? Sì, in negativo in questo caso. Yara in quella palestra quel giorno a quell'ora nessuno poteva sapere che ci sarebbe andata, disse alla mamma voglio riportare uno stereo portatile, quindi non c'era nessuna possibilità che chi poi l'ha presa, l'ha uccisa, l'avesse pedinata, sapesse i suoi spostamenti, proprio ha approfittato di un momento. E purtroppo le cose poi sono per lui andate bene. Io sento spesso parlare poi di indagini carenti, devo dire che in questo caso le indagini si sono mosse subito, forse hanno trascurato quel famigerato cantiere a Mapello dove i cani molecolari avevano portato subito gli investigatori, peraltro francamente avessero orientato gli investigatori in maniera più decisa le indagini sul cantiere di Mapello, non so quanto operai avrebbero trovato, cioè in un cantiere così grosso qualche anno fa, anche adesso per carità, ci sono molti operatori che lavorano in maniera non regolare, extracomunitari. 5 minuti dopo che si è sparsa la voce di una ragazzina rapita e scomparsa, probabilmente metà di quei dipendenti in nero erano già ben lontani ed era impossibile, tanto è vero che la procura di Bergamo poi si è fermata dal chiedere rogatorie internazionali per recuperare tutti gli operai del cantiere, anche perché non sarebbero stati in grado di farlo. Infatti, tra l'altro, Massimo Picozzi in un primo tempo era stato accusato, mi pare, un operaio nordafricano? Un marocchino. Diciamo che questa è stata invece la parte dell'indagine più sconcertante. È stato fermato sulla base di un paio di intercettazioni telefoniche in cui in lingua magrebino, in cui era parso che quest'uomo stesse in qualche modo riferendosi al delitto o al fatto di avere assistito, di sapere qualcosa. Ecco lì è abbastanza scandaloso, perché è vero che questo ragazzo parlava un dialetto postretto, non una lingua ufficiale, però signor trovare un interprete in una procura come quella di Bergamo, o anche chiedendo a Milano che sapesse perfettamente il dialetto, invece ci sono voluti mesi per scoprire che in realtà quest'uomo così si era lasciato andare a delle frasi di circostanza drammatiche, se vogliamo, ma che non erano assolutamente delle prove, non incriminavano assolutamente. Quindi secondo te, Massimo Picozzi, in realtà le indagini non sono state carenti, però il fatto è che a un certo punto hanno preso una direzione un po' fuorviante, nel senso che lei secondo te non è stata pedinata, non era qualcuno che la conosceva, che la osservava da tempo, che la desiderava. È capitato proprio lì, disgraziatamente, lei in un momento in cui c'era un maledetto delinquente che l'ha vista, questa ragazzina di 13 anni, e gli sono venuti 5 minuti. Complicato dal fatto che il corpo di questa ragazza è stato ritrovato mesi dopo, quindi anche molti degli indizi sono poi scomparsi. Ecco, su alcune di questi particolari ho sentito delle grandi sciocchezze, ad esempio dire, ma è possibile che non, cioè, deve essere stata portata nel luogo dove l'abbiamo trovata più tardi, non può essere morta lì. Perché? Perché quello era un posto, un campo dove molto spesso dei cacciatori uscivano con i propri cani a passeggio e quindi un cane l'avrebbe sicuramente identificata. In realtà i cani, che hanno un ottimo olfatto, cercano di fuggire, di allontanarsi da qualunque cosa che possa essere un corpo morto. Quindi sgradevole, dice. Anzi, per loro... Ma questo è intuitivo, cioè per un animale con un olfatto molto sensibile un odore sgradevole è ancora più sgradevole, quindi però direi che questo fatto di aver trovato questo corpo con grande ritardo, d'altra parte poi invece le polemiche sul numero di esami fatti sui costi, nel momento in cui l'unico indizio che si è trovato è proprio questo, ed è un indizio forte, cioè quello che abbiamo recuperato, il padre, sicuramente il padre dell'assassino, solo questo abbiamo in mano in questo momento, per cui mi sembra anche scontato continuare in quella direzione. Alcune grandi indagini dal dopoguerra in poi hanno registrato dei colpi di fortuna. Io ricordo sempre un caso avvenuto nel 1946 in Inghilterra di una bambina uccisa, anche qui una bambina molto piccola, ricoverata in un ospedale, in cui allora non c'era il DNA ma c'erano le impronte digitali, e presero le impronte digitali all'intero paese, si parlava di 45.000, non 18.000, 45.000 impronte digitali. Dopo 45.000 impronte digitali non trovarono nulla, ma a quel punto venne in mente un investigatore che ancora esisteva un elenco legato alle tessere annonarie che erano state distribuite durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi c'era un elenco di persone che non erano state ancora esaminate, e in quegli 800 persone, oltre le 45.000, è stato trovato poi l'assassino. Quindi direi che la scienza, qui la speranza, certamente il costo di questa indagine è veramente spaventoso, però arrivati a questo punto io francamente non mi fermerei. Speriamo che si arrivi finalmente al colpevole, almeno per la famiglia, insomma, che, certo, no? Certamente, almeno questo. Grazie Massimo Picozzi. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao Massimo. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo in pochi secondi, poi passiamo a un altro tema. Con Berlusconi è stata accolta la richiesta della difesa, il procuratore generale avrebbe dato parere favorevole all'affidamento in prova per lo sconto, per scontare appunto la pena di 9 mesi, la decisione però verrà depositata entro 15 giorni. Altro caso giudiziario di oggi, Formigoni, la procura di Milano sequestra la sua villa in Sardegna, stoppa i conti, un blocco di quasi 50 milioni di euro, ma l'ex governatore della Lombardia, ora senatore del Nuovo Centrodestra, commenta: non possiedo tutto questo. L'abbiamo appena sentito, la vicenda di Yara Gambirasio, arriva la conferma definitiva dal DNA, l'assassino è il figlio dell'autista di Gorno, anche se per il momento non ha nome e non ha volto europeo. Il PD litiga, Grillo attacca, veline come capolista, i renziani replicano a paura di perdere. Vediamo per il calcio, la Juventus in Europa League, se guardando gli aggiornamenti scappa un altro gol con il Lione. No, per il momento Juventus e Lione 1-1 pari. E non so se il giornalista francese Eric Joseph è tifoso magari del Lione, Eric? No, sono tifoso del Saint-Étienne, che è la squadra rivale del Lione. Europa 24 notte. Ecco Eri, questa è la sigla dell'Europa con Eri Diodes, perché parliamo, giornalista francese, direttore della prima rivista che nasce oggi, si chiama Utopia, la prima rivista online che parla in europeo, una webzine si potrebbe chiamare, frutto della collaborazione tra quattro case editrici, editori La Terza per l'Italia, Fischer Verlag per la Germania, Editorial Debate per la Spagna, Edition du Seuil per la Francia, in partnership con Telecom Italia e la London School of Economics, una cosa grandiosa, insomma, Eric Joseph. Beh, grandioso, cercheremo di essere grandioso, comunque prima di tutto cerchiamo di essere all'altezza della sfida che ci siamo dati, nel senso di pensare che l'Europa non si può continuare a pensarla soltanto dal punto di vista economico, della convenienza economica, soprattutto perché tanti cittadini ormai hanno la considerazione che non c'è più questa convenienza, anzi abbiamo in qualche maniera costruito l'Europa senza veramente pensarla, senza fare circolare le idee, senza conoscerci a vicenda, e dunque l'idea è proprio in qualche maniera di creare questo agora online in modo di fare appunto circolare le idee, di ripensare, di aprire il dibattito e anche in qualche maniera anche di incarnare l'Europa, di fare vedere, di raccontare l'Europa attraverso anche dei racconti di storici che ci racconteranno anche quali sono i momenti chiavi dell'Europa, alcuni testi che sono fondamentali per tutti noi europei. Cominciamo anche con presentando il discorso di Václav Havel, il presidente filosofo ceco nel maggio 90 davanti al Consiglio dell'Europa, che è veramente un discorso strepitoso, perché racconta quanto gli dicevano sempre prima della caduta del muro di Berlino, che doveva essere ragionevole, che doveva resignarsi, che in qualche maniera c'era un dato di fatto che era il mondo diviso in due, che c'erano delle leggi storiche, e lui continuava a sognare un altro mondo, un'altra Europa, e viene davanti al Consiglio d'Europa per dire: guardate, un altro mondo è possibile, e dice: se vogliamo costruire un'Europa migliore bisogna sognare un'Europa migliore. Questi sono un po' i temi con cui vogliamo confrontarci. Quindi si parla anche molto, non solo di bisogni ma anche di sogni, Eric Joseph, tanto è vero che si chiama Utopia, un po' mettendo insieme l'Europa e l'utopia, c'è bisogno di sognare, di sperare, di immaginare, insomma, un'Europa diversa. Ho visto che ci saranno collaborazioni di altissimo livello, addirittura vedo la firma di Zygmunt Bauman. Sì, abbiamo appunto filosofo e sociologo polacco. Sì, il sociologo polacco di origine, cioè che in realtà risiede in Inghilterra tanti anni, a tale punto che quando una volta gli era stato chiesto quale inno nazionale ci voleva per prima di una ceremonia di onorificenza, lui non sapeva che scegliere tra l'inno polacco o l'inno inglese, e poi la sua compagna, sua moglie, gli suggerisse di prendere l'inno europeo, e lui disse: in effetti io sono prima di tutto un europeo. Dunque c'è Zygmunt Bauman, c'è Paul Collier, Fernando Savater, Jan Zilonka, Luciano Canfora, ho visto tra gli italiani per esempio Luciano Canfora, che ci racconta appunto, ci ricorda che cos'è la parola utopia, perché l'utopia, l'utopos è il non luogo, l'eutopos è il buon luogo, e noi cerchiamo di fare in modo che l'eutopos sia il buon luogo europeo. Però non è soltanto una rivista di sogno, nel senso che bisogno, e come lo ricordava anche Jean-Paul Fitoussi, che ha partecipato al lancio della rivista, l'economista, diceva: bisogna avere delle utopie fattibili, e ci sono utopie fattibili. L'importante è più che un'utopia, è riaprire un orizzonte, pensare che proprio possiamo riappropriarci anche degli strumenti politici. Per questo bisogna spostare lo sguardo, e cominceremo a farlo anche pensando su alcune tematiche che sono molto forti e che riguardano il presente e il futuro degli europei, e cominciamo ponendosi la questione del rapporto tra immigrazione e Europa, quale politica di immigrazione, quale politica reale e già che argomento delicatissimo. Infatti Eric Joseph, ci dobbiamo lasciare, ma per trovarla sul web quindi si va a cercare Eutopia, Bisogna fare www.eutopiamagazine.eu. benissimo, visto che parliamo di Europa, grazie. Allora buona fortuna, buona continuazione, poi avremo modo di riparlarne. Grazie Joseph. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso nei prossimi tre minuti stiamo un po' a cavallo tra Europa e Italia con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Perché c'è un misto di cose qui, nel senso che la BCE ha detto finalmente c'è un po' di riprese anche per l'Italia. Poi però il Fondo Monetario Internazionale ha di nuovo sottolineato la gravissima disoccupazione. Poi si parla anche della Grecia che è ritornata sul mercato con i titoli, che è andata benissimo. C'è stata questa brutta coincidenza di una potente autobomba che esplosa all'alba di questa mattina nella sede della Banca Centrale ad Atene, causando danni, per fortuna nessuna vittima. Esatto, l'Eutopos, per riagganciarmi a quanto si diceva poc'anzi, è davvero la Grecia oggi, nel senso che è riuscita a piazzare dopo 4 anni di vacche magrissime 3 miliardi di euro al 4,95%, al di sotto del 5%, quindi per loro, perché dovranno sborsarlo, gli oneri del tasso di interesse è molto buono, molto, molto basso, viste le loro condizioni macroeconomiche, con la domanda degli investitori che è arrivata a ben 20 miliardi di euro, quindi vuol dire che ci sarà una grandissima attenzione degli investitori sul futuro auspicabilmente positivo della vera pecora nera dell'Europa, che così come è stata finora la Grecia. Questo quindi fiducia nei confronti della Grecia, infatti, per noi e per l'euro. Anche se chi era ieri il Fondo Monetario che ha detto l'Italia nel 2015 si troverà un po' peggio della Grecia? Nel senso che non riusciremo ad avere il potenziale di crescita che viene accreditato alla Grecia, che adesso viene considerato un motore in grande rimonta. Dobbiamo dire che non c'è nessuna comparabilità tra le nostre due economie. La nostra viaggia davvero a 4-5 cilindri, quella greca sì e no a 1. Non c'è nessuna comparabilità con il nostro sistema manifatturiero, è un'industria prevalentemente fatta di servizi, di turismo e di poco altro come quella della Grecia, quindi è chiaro che parte da una soglia più bassa, quindi anche più facile crescere di più. Alberto, in questo minuto che ci resta, tu riesci a chiarirci questi stop and go, se vogliamo essere internazionali, sull'economia e sulla ripresa italiana? Qualcuno il giorno prima dice finalmente la ripresa si esce dal tunnel, il giorno dopo sì, però purtroppo se non ci sono le riforme qui non si va avanti, poi la disoccupazione, poi però si riprende, che succede? Sì, esatto, c'è sempre una lettura con un ma in mezzo, con un però. Tutti stanno vedendo che c'è una velocità, una forte accelerazione sulle riforme, sul percorso di riassetto delle grandi variabili macroeconomiche, anche istituzionali del nostro paese, ma tutti ancora sono un po' scettici poi sull'effettiva fattibilità di questi programmi e quindi in questo momento tutti gli investitori internazionali stanno molto apprezzando la velocità di Renzi, però mettono sempre il però, il caveat, il ma, dicendo sì, però deve rispettare gli impegni, deve trovare le coperture, deve riuscire a modificare il mercato del lavoro, perché deve riuscire a farcela, sennò questi mai però non si leveranno mai. Il tempo intanto corre, che qui va più veloce di Renzi, quindi ti saluto Alberto Rioli, grazie e buon lavoro per il giornale anche di domani, e noi ci sentiamo tra poco.